ottenuto il benestare delle autorità locali, sindaco e portavoce si immergono nell'atmosfera della Villa Lumière. Camminano per chilometri, scalano un antennone disprezzando chi usa l'ascensore, ma rimanendo con le rotole in mano al primo piano della Torre Eiffel. E si cibano esclusivamente di baguette. Eppure in Francia non c'è solo la Francia. E così si ritrovano una sera a Belleville, un quartiere cinese, a ballare pizzica salentina suonata da due calabresi. Due calabresi. A Parigi? Aiuto! I calabresi in realtà erano quattro. Tutta colpa del portavoce, al quale sono apparsi una volta entrati in territorio francese amici, conoscenti, eppure sconosciuti che lo conoscevano. Forse ha incontrato anche sua nonna, ma non ne abbiamo le prove.